Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, la prima notizia naturalmente dall'Europa. Dopo mesi di negoziati, dunque, Bruxelles ha deciso, il braccio armato di Hezbollah entra nella blacklist comunitaria. L'ala militare degli Hezbollah libanesi finisce nella lista nera europea del terrorismo. L'accusa è aver compiuto attacchi su suolo comunitario, nello specifico con l'attentato di un anno fa a Burgas in Bulgaria, nel quale morirono 5 turisti israeliani. La decisione non è stata raggiunta con facilità. La Gran Bretagna, insieme a Olanda e Germania, ha insistito per raggiungere l'obiettivo. Altri paesi, tra cui l'Italia, hanno invece mantenuto posizioni più scettiche, nel timore che una decisione del genere possa provocare conseguenze sul fragile quadro politico libanese, all'interno del quale Hezbollah gioca un ruolo di primo piano. È prevalso il senso di trovare un'unione di intenti, partendo dal principio che attentati terroristici su suolo europeo non possono passare senza reazione, ha spiegato il ministro degli esteri Emma Bonino. Roma si è detta comunque soddisfatta per la decisione europea di mantenere gli aiuti finanziari, umanitari e il dialogo politico col partito sciita. La decisione rappresenta un segnale politico ma anche concreto. Non siamo disposti a tollerare il ricorso al terrorismo per raggiungere obiettivi politici, ha aggiunto l'alto rappresentante europeo Cathy Ashton. Dura la prima reazione da Beirut col ministro degli esteri libanese Al-Mansur, che ha denunciato l'Europa ha subito forti pressioni, mentre il presidente israeliano Shimon Peres ha definito la decisione comunitaria un provvedimento necessario e saggio. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore. E l'Unione Europea oggi ha approvato un'iniziativa da 25 milioni di euro per lottare contro la violenza alle donne nella Repubblica Democratica del Congo. L'iniziativa è stata presentata dal commissario europeo allo sviluppo Anders Piebalgs. E ora parliamo di sport e TV, di come una sentenza stia facendo discutere. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto le impugnazioni di FIFA e UEFA contro le sentenze del Tribunale di primo grado sulla trasmissione TV delle partite per la Coppa del Mondo e dell'Europeo di calcio. Questo significa che i paesi dell'Unione Europea hanno il diritto di vietare l'esclusiva in televisione per eventi considerati di particolare rilevanza sociale, consentendo dunque la trasmissione in chiaro e una più ampia diffusione. Infatti, 6 anni fa il Belgio, in base alla direttiva comunitaria dell'88 sulla TV, decide che tutte le partite del Mondiale di calcio sono appunto di rilevanza sociale. Stessa cosa fa la Gran Bretagna con gli europei. La Commissione dell'Unione Europea dà l'ok, ma FIFA e UEFA, che vendono a peso d'oro i diritti delle due competizioni, si oppongono. A febbraio 2011 ricevono però un no dal Tribunale dell'Unione Europea. La battaglia continua con il ricorso alla Corte di Giustizia, che ora lo ha rigettato. Ricordiamo che in Italia a decidere la rilevanza degli eventi sportivi è il garante delle comunicazioni, che per il momento ha indicato le gare della nazionale, le finali del Mondiale, dell'Europeo, della Champions League e dell'Europa League. Per i mondiali di calcio brasiliani del prossimo anno, le gare degli azzurri saranno quindi visibili tutte sulla Rai in chiaro, mentre il torneo per intero sarà a disposizione degli abbonati Sky in esclusiva. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo un ricco e approfondito opuscolo pubblicato dalla Commissione europea in occasione del 2013, anno europeo dei cittadini. Il dossier raccoglie tutte le attività intraprese dai giovani nell'Unione europea che riflettono sulla cittadinanza attiva, critica e responsabile. I progetti hanno ricevuto il sostegno del programma Gioventù in Azione sotto forma di scambi giovanili, servizio volontario europeo e progetti di formazione per operatori e organizzazioni giovanili. Dal teatro ai giochi di ruolo, dal restauro di scuole ai corsi di cinema, dai campi sul ruolo della donna a quelli sull'educazione attiva. Tutte le buone pratiche europee sono quindi elencate e spiegate in modo da essere rese replicabili e messe a disposizione di tanti altri giovani. L'opuscolo Young Citizen of Europe è scaricabile dal sito ec.europa.eu. E con questo è tutto, Pietro Lacorte in regia, Gigi Donelli al microfono, l'appuntamento domani alle 13:15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.